Riflessioni da Marte. Mentre puntavo, come sempre, da quassù da Marte in questi giorni il telescopio verso il globo terracqueo con palese preferenza, è ormai noto, lo sapete, per lo stivaletto italico, ho inaspettatamente percepito una serie di esplosioni. Ho pensato con grande e vibrante preoccupazione che fosse scoppiata la Terza Guerra Mondiale e regionale, ma poi ho capito, rassicurandomi, che era solo un effetto naturale, fisiologico, della campagna elettorale in corso. Le stavano cioè sparando grosse, talvolta grossissime. Tanto grosse che a volte se ne rendevano conto gli stessi concorrenti. Ma Berlusconi ha detto un'altra delle sue stronzate, ma la stronzata di oggi, è la più grossa di tutte. Ha detto che farà 4 milioni di posti di lavoro. Altri concorrenti rispondono persino con corpi contundenti. Quando sento parlare di sorpassi, io rispondo col binocolo. E poi tutti che discutono di matrimoni gay, forse per distrarre l'attenzione e non dover fare loro coming out? Chi sta con chi, dunque? Bersani si metterà o no con Monti o lo disdegnerà per non rovinare il rapporto con Vendola? E il professore ci starà con Nichi o no? O faranno magari il triangolo? Il triangolo no, non l'avevo considerato. E quello tra la Lega e il PDL è un matrimonio, un'unione civile alla tedesca o una convivenza di convenienza? Scusi lei, mi amo no. Non lo so, però ci sto. Insomma, in campagna elettorale ogni buttata e ogni mossa vale. Sapete invece i paletti a chi li mettono? Al carnevale, là dove si potrebbe fare i pagliacci senza conseguenze per il paese, c'è in questi giorni una pioggia di ordinanze da parte di vari comuni, dalla Liguria alla Sicilia, che bandiscono per il carnevale maschere, ortaggi e spade di Zorro. Mi danno in mano un paio di schede e una bellissima matita lunga, sottile, marroncina, perfettamente temperata, e vado verso la cabina, volutamente disinvolto per non tradire le emozioni, e faccio un segno sul mio segno, come son giuste le lezioni. È proprio vero che fa bene un po' di partecipazione. Con cura piego le due schede e guardo ancora la matita così perfetta e temperata. Io quasi quasi me la porto via.